My father's name was Elijah. And my name is Ragnar Pfizer. Sono cavalli. Sentito? Che news stasera? Questo è Ragnar Pfizer, lo dice anche la sigla. Se non lo sapete, ora salletelo. Lunedì, e come tutti i lunedì, sono le 21 e alle 21 sulle frequenze di Controradio, Ragnar Pfizer. Fino alle 22.30. Fino alle 22.30 saremo con voi, Duccio, Tommy, Colossius. Sera. E cavalli. Manca biga, ci sono anche i cavalli, chiaramente. 0557399933 è il nostro numero di telefono, se ci volete telefonare. Mentre info.ragnarpaisa@gmail.com è la mail alla quale ci potete scrivere. Ha stappato un prosecco. Prosecchino. ragnarpaisa.net è il sito dove potete andare a scaricarvi le scorse puntate, i mix esclusivi, le uscite, release, bit tape, eccetera eccetera, e dove da domani potrete trovare c'è anche Peruviani e Piazzale Michelangelo, dove potete trovare questa trasmissione in podcast con tanto di tracklist. Qua visto, vai, cioè, io ti faccio, ti metto la base e te, ma vendi anche CD? Ma lo sto registrando, ma quando l'ho finito me lo può masterizzare e poi lo vendo. Lo mixi da bubu, ma fai anche i disegni, me lo distribuisce Rolando a mano. Ma fai anche i disegni, quelli con la luna, con il cerchio, le bombolette, certo, poi quando non registri il disco fa quello. Un cinquino. Con i sottovasi. Con sottovasi. Questo è Colossius che sta andando in sottofondo. Noi ve lo lasciamo per il suo set. E noi ci sentiamo tra poco. Yo. been precise. Dilated people, so you better build twice. Act like you don't, not now but right now. Violated people, yeah. Out of sight. I go through rivers, what? So I don't leave a sink. I travel both directions, believe one set of prints. It's just a little trick of the indigenous, developing the visions of what religion is. I plant the understanding and the underhanded. I plan to build my ship and man it to another planet under heavy surveillance. Many different agents, some are camouflaged, others are very blatant. I study weapon systems and vocal fighting forms. I'm many moves ahead, the thoughts are highly formed. Like time, time's time, it's Times Square. Went there, saying rockin', you don't rhyme fair. But I never dummy lyrics and they kick it to my people. It's about communication, not a rapper's ego. Messages I sneak in, they seem to seep in. Mixed with alcohol and weed on the weekend. Shared among friends like various sins. One day it clicks, it's no longer dim. Time release capsules, humble the headstrong. The thoughts are taking me head on a dead wrong. I work the angle, sharp and precise. The dilated people, so you better build twice. Right. Violated people. I work the angle sharp and precise. Dilated people, so you better build twice. Act like you know, not now but right. Violated people. The master of Aikido. I let go, karate confrontation. Evidence, scientists and innovation. I locks on when I travels around planets. Smooth but got a rough edge like bullets or pianists. Just split mucho attack, receive payments for the cadence. Ain't in this to get hit foul with flagrants. Free agents on the dotted line, more hard to sign. Not easily impressed with gold mines and whole nines. I'm somewhere in between, never rushed and in a hurry. And when I swing my bat, don't think I'll miss like baseball fury. The jury's hung for verdict, they got no chance. Dilated comes first, the rest are second like Stu Lance. Oh yes, it gets better. Every day the ace wine is my mind on vintage display. Unattended in this case, the ace is steps ahead. Every day is mayday and best friends are feds. But I know this, that's why they closest. In a crisis situation you negotiate first. I'm perfectly focused, strategic, and in the zone. It was radar detected but my speed was unknown. Anonymity, that's my key to survival. Ever's not for evidence, for evidence on trial. Just remember in this game it takes two to tango. Don't go to them, let them come to you. And work the angles, sharp and precise. Dilated people, so you better build twice. Act like you know, not now but right now. Violated people. I work the angles, sharp and precise. Dilated people, so you better build twice. Act like you know, not now but right now. Violated people. bag, nigga. Come on. If you from the VK, Soufflé, nigga. Come on. If you from the Cherry QB, nigga. Come on. If you from the NY, you fly, nigga. Come on. Now here we are, star for the sarsaparilla. I'm the Donizetti on the Van Wyck Express. We got the Emporio and the Vino just for the keeper. And yes, he be the Chiba. And yes, I be the sweeter. So give me Sega, Sega, and we can get real geeky. The seventh heaven cloud is for my Kufi and Nashiki. So you see me on the upper, but it's always the lower. We make it Hollywood, cause Diamond Cooks is taking over. And yes, yes, you to the beat and score like 10 on my IQ test. They fly with the vine, so I'm so funky fresh. I rocks to the east, I flows to the west. This Max Julian, number one draft pick. A finger to the rest, here we go for the Knicks. It's like that, super fat, catch a heart attack. The smoke the shoe, we do it with the black nostalgia. If you fun to be X Connect, nigga, come on. If you fun to be Chase Soufflé, nigga, come on. If you fun to Cherry QB, nigga, come on. If you fun to NY, you fly, nigga, come on. If you fun to be X Connect, nigga, come on. If you fun to be Chase Soufflé, nigga, come on. If you fun to Cherry QB, nigga, come on. If you fun to NY, you fly, nigga, come on. No, not cheap, I know it can't be. Hands so sweet, how sweet can they be? I rock around the clock, then I run up on your block. I give a cat a smack to the rhythm tick-tock. But who he? You know it only be the Sunny G. And who that? The Kinder Arrow Flame, Geechee Suede. I ride up on the wave and pursue the gay blade. Lazima Jackson beat her like she stole something, bruh. Yo, she called me 48. She had the Oriano stashed in the Hathaway. Zenobi Hipsy out of City Barricado Heights. And now we got the fuzz flashing crazy fucking lights. The diamond life is trife, but we can get the slido, so give Ilo in the blamma. We'll meet them in Aruba, get the goods down in Savannah. We know it can't be them, so yo, we got to be the lower. We make it Hollywood, cause Diamond Cooks is taking over. So if you fun to be X Connect, nigga, come on. If you fun to be Chase Soufflé, nigga, come on. If you fun to Cherry QB, nigga, come on. If you fun to NY, you can fly, nigga, come on. If you fun to be X Connect, nigga, come on. If you fun to be Chase Soufflé, nigga, come on. If you fun to Cherry QB, nigga, come on. If you fun to NY, you can fly, nigga, come on. One's for the money, two is for the Ebenezer. We should stick these cats for all they masses and they visas. And we do it on our leisure. I keep away, we Caesar. I used to rock a bubble goose while shotting to the fever. Now we in the Estee Lauder and Nina Richie Saga. The Viking from Cremona with tequila for my campus. I said it once before and I'm saying it all over. We make it Hollywood, cause Diamond Cooks is taking over. So talk cats from BX on the one and the two. We sipping on the booze with the little Bigly shoe. Somebody pull the heist, but they just don't know who. I wonder how we do. Heist the juice, how we do. I'm in every line with a little bit of ooh. I do sling my things, but I practice gun fu. Now this here be the end, so we will be seeing you. Nigga, come on, nigga, come on. So if you fun to be X Connect, nigga, come on. If you fun to be Chase Soufflé, nigga, come on. If you fun to Cherry QB, nigga, come on. If you fun to NY, can fly, nigga, come on. I'm like Gregory Hines, click clickety click, click clickety click, click clickety click, click clickety crack. Yo, this goes out to the wickety whack, bro. I'm not the rapper, so step to Curtis Blow or Angie B. Or the bone with the Kango, two more whacking, two more packing. To see the best show, the experts are facting, yo. Super step to the side, cause I realize over in Northwestern, I move, groove, take a bow to the best in New York City rappers, yo, each and every one of you. This is what I'm gonna do, drop a style step to girls that rhyme, step aside, put your panties on it. Look at your partner, see your homegirl Sandy on it. Fighting the metaphor, but Tracy start with dicker. So step to the X, smooth doggy style sticker. Grabbing the mic, you see the South Bronx champ. As I train in gyms, to drop a rhyme in any camp. I move quick and walk around the old railroad. You step back and get off the old stale road. You ain't fresh like Bobby or Buster Brown. I'm just mad, I walk around and I bust a frown. I stand tall with my rhymes and my cap and gown. I use the X to flow, bring daddy home. I'm driving a Chevy while X can drop a caddy home. Mercedes, no Benz, a Maserati, a Porsche, no Audi. Trying to flex in a Jeep Cherokee. Amigo, so follow where I go, you go. A Honda is suitable for special, as in special education, learn. Yo, cause toys get burned, yo, in my class. Sit down, please, cause you funny. I'm in the mix, mix, mix, mix, mix. Yeah, this goes out to the one Chuck, chill out. More love, TR love in effect. Rock him is in the place. And my main man, MC Hammer, the rapping Duke, Sir Mix-a-Lot, Tone Loc, and all those brothers out in the West, the main boys, Young MC, y'all be cool. Digital Underground. Yeah, ride em, ride em, ride em, ride em, ride em. niente qui. Storie epiche. Epiche. Cavalli, laser, trombette. C'è tutto. Ci sa tutto, di che ci sa non manca nulla. Allora, sulle note dei Daft Punk, diciamo un po' di serate di questa settimana, che ci saranno questa settimana, e partirei subito con il 22, ovvero domani all'altro, mercoledì, giusto? Mercoledì. Che ci sarà una seratona al Tenax, che vede per la serie di serate Under Pop, ovvero le serate organizzate da Tenax in collaborazione con Andrea Mi. Un saluto ad Andrea, che è anche resident di questa serie di serate e che vedrà come ospite Laurel Halo. Laurel Halo è una produttrice americana che ha fatto diverse uscite, diversi EP, all'inizio sui Posing Tanks e adesso sbarcata su Hyperdub, e ha già fatto due album, uno nel 2012 e uno nel 2013, e niente, noi consigliamo di andarla a vedere perché insomma è abbastanza interessante come artista. Farà un live e poi ci sarà DJ set di in chiusura di Andrea Mi, Mixology, e G-Amp, Density Serendipity. Poi passiamo al 24, che io ora non so, il 24 sarà venerdì. Venerdì il 24 al Tabasco, release party del disco Processes dei Clover, che abbiamo avuto anche come ospiti, non ricordo quante puntate fa, tre puntate fa, e che potete andare a riascoltarvi la puntata in questione, potete andare a scaricarvela su ragnampaisa.net, dove ci trovate una lunga intervista e un DJ set che vede appunto dove loro hanno suonato brani del loro ultimo album. Quindi il 24, ovvero venerdì, al Tabasco. La stessa sera alla Flog, per le serate Vibra Night, ci sarà Maccabi e Scaramucci con Sound Love, quindi serata reggae. Maccabi, artista storico giamaicano inglese, idem Scaramucci. Niente, per rimanere su il tema inglese, Inghilterra, io vi consiglio di andare a vedere su dazeddigital.com questo breve documentarietto, sembra duri un quarto d'ora circa, che si chiama Brandy and Coke, e che ha fatto questo fotografo Ewan Spencer, che ha girato un po' su facendo interviste, e ci sono un po' di video della Golden Era dello UK Garage, e anche visto sia dal punto di vista della musica, ma più che altro dell'aspetto fashion, quindi come la gente si vestiva ai party, ai rave. Insomma, è carino, dura troppo poco perché insomma l'argomento è abbastanza ampio, però comunque ci sono un sacco di documentari, se poi vi piace questo potete approfondire la materia su YouTube e vi scrivete UK Garage. Ci sono anche dei documentari interessanti su tutta la parte delle radio pirata, eccetera eccetera. Facciamo andare Tommy e noi ci risentiamo fra poco. We'll be right back. دریا اسیر باران شکست قایه به موج طوفان نپیچد امشب در آسمان ترانه های ماهی گیر به چشم دختری گوهر روا شود ستاره ها جدا ز آسمان شود به چشم دختری گوهر روا شود ستاره ها جدا ز آسمان شود گر امشب خایق سوی بندر نیاید روحم گم شد در طوفان ها دیگر نیاید بیا که تا ابد تو را صدا کنم به روی ماسه خدا خدا کنم بیا که تا ابد تو را صدا کنم به روی ماسه خدا خدا کنم اسیر باران شکست قایق به موج طوفان نپیچد امشب در آسمان ترانه های ما میگیرم ز چشم دختری گوهر روان شود ستاره ها جدا ز آسمان شود ز چشم دختری گوهر روان شود ستاره ها جدا ز آسمان شود vleknout donutí pláví. Vím, že bouřka bývá konečná, vím, že skončí dešť upát. Já, ač nejsem statečná, chci jak socha netečná stát. Já tu s tváří neměnou, oh, oh. Já tu s tváří neměnou, oh, oh. Já chci pevná v kolenou stát, v bouři stát. Já tu s tváří neměnou, oh, oh. Já tu s tváří neměnou, oh, oh. Já chci pevná v kolenou stát, dál stát. Vždyť se bouřka věčným blízkáním unaví. Proto nemám ráda pokání nezdraví. Každá bouřka ozon předchází, každou bouřku čeká pád. Já, i když mě zamrazí, nechci v době nesnází lhát. çiçekten çiçeğim, yıllardır ağlayan dertli gönlümdür. Güneşe dön çiçeğim, yıllardır ağlayan dertli gönlümdür. Derdimi söylesem sana, dinle içimi derin yara. Neler geldi garip başa, ağlarım yana yana. Ah de var aloy, ah de var aloy. Gözlerinden bilemem neden solgunsun sen, bilmedim ki neden. Güneşe dön çiçeğim, yıllardır ağlayan dertli gönlümdür. Güneşe dön çiçeğim, yıllardır ağlayan dertli gönlümdür. Derdini söylesen bana seni. Eccoci. Allora, vi siete ascoltati un po' di roba attinta da un po' di compilazioni e ristampine uscite negli ultimi anni, per chi segue un po' etichette tipo la Finders Keepers, Vampy Soul, Now Again, insomma queste etichette dedicate al recupero di materiale un po' più particolare di vecchia data. Comunque tutti i titoli ve li cercate domani sul sito ragnampaisa.net, ci sarà la tracklist come sempre. È passato Zelda, Kurosh, un po' di roba turca, un po' di tutto, insomma, un vecchio mistone fantasie. Duccio è pronto, mi guarda anche male, quindi non trastullerei oltre la conversazione. Va Duccino fino alle 22:30, noi ci sentiamo lunedì prossimo come sempre, sempre qui. Stateci buoni. Ciao. Yeah. Bring me down and bury me. comes around. She's so cool in the summer. To a log upon a mountain high, watching buzz the sky. Psychomania, psychomania, psychomania. A bird in the bush gives a hunter a bush, helps him on his trip. The bird is very hip. Psychomania, mindless creakings grope through idiosyncrasy fields, up, rising, up, down, down, down.